pieno di fiori da curare, francobolli da annaffiare. Voglio avere una vita normale, che mi alzo presto per lavorare, un traguardo importante da mancare e un fratello buono da fregare. Una squadra del cuore da tifare, un partito forte da votare, un attore al quale assomigliare e dei denti nuovi da mostrare. Voglio avere una vita normale, che mi alzo presto per lavorare, una ragazza bruttina da sposare e un'automobile rossa da lavare. Voglio avere una vita regolare, sapere quello che va, quello che male. Voglio avere una vita normale, sapere quello che va, quello che male. Ma voglio fare una cosa speciale, una rapina che mi salva la vita. Voglio fare una cosa speciale, una rapina che mi salva la vita. Voglio avere una vita normale, che mi alzo presto per lavorare. Voglio avere una vita regolare, sapere quello che va, quello che male. Un cagnolino da portare a passeggiare, un bambino pannolino da cambiare, un giardino di fiori da curare, un francobolli da annaffiare. Voglio avere una vita normale, nessuna rivoluzione da fare. Voglio avere una vita regolare, che vado a scuola ad imparare a suonare. Voglio fare una cosa speciale, una rapina che mi cambia la vita. Voglio fare una cosa speciale, una rapina che mi cambia la vita. Voglio fare una cosa speciale, una rapina che mi cambia la vita. Voglio fare una cosa speciale, una rapina. Domani scendo e mi compro una pistola. Domani scendo e mi compro una pistola. Domani scendo e mi compro la pistola. Domani scendo e mi compro una. Boom boom, boom boom. E poi con i soldi mi compro un camper, una station wagon, oppure un telefonino portatile, oppure un Kalashnikov per rapine più grosse, oppure potrei comprare mi compro